non tanto, poi però non chiedeteci di grandi risultati né al liceo né all'università, ecco. Altro libro, bianca come il latte e rossa come il sangue, altro insegnante a scriverlo, Alessandro D'Avenia, ma conclusioni molto diverse. Anche qui ci sono ragazzi ipertecnologici, ma lei è un ragazzo protagonista, è un bel leone con la sua bella criniera. Pensa molto ai suoi capelli, ma non è affatto vuoto. Sì, insomma, se faccio questo mestiere da 11 anni e non ho smesso è perché la linfa viene da lì, cioè il vero stipendio sono loro. Faccio un esempio, sono stato la settimana scorsa in una città emiliana, 2 settimane fa in una lombarda, e avevo un incontro al pomeriggio e in entrambi c'erano 1000 ragazzi che erano lì per un professore che parlava di un libro. Mi ha colpito una cosa che mi ha detto Mattia, il ragazzo ha preso la parola per primo, un 17enne di Modena, che ha detto: io ho letto questo romanzo e alla fine, dopo averlo letto, si è acceso un fuoco dentro di me e mi sono detto: io voglio vivere così, adesso lei mi deve spiegare cosa si è acceso. E forse anche la scuola da questo punto di vista non fa un granché, anche se nel suo libro, insomma, è vero che la scuola viene descritta come un inferno. Sì. Cito qualche passo, qualche test d'ingresso per verificare il livello di partenza di ciascuno. Dopo questa calorosa accoglienza, l'inferno. Ridotti in ombre, polvere, compiti, spiegazioni, interrogazioni come non ne avevo mai visti. E poi ancora il greco che viene definito la verdura della scuola. Amara è utile solo al transito intestinale, cioè a fartela sotto il giorno dell'interrogazione. Perché la scuola viene vissuta come un inferno? Ma intanto dobbiamo capire, dobbiamo ridefinire questo concetto di scuola, perché sembra che la scuola siano le mura, invece la scuola è una relazione, è la relazione tra genitori, insegnanti e ragazzi. Questo è l'unico triangolo amoroso in cui, se tutti si amano veramente, non soffre nessuno, ma funziona. Quando i ragazzi percepiscono l'attenzione di genitori e insegnanti su di loro, sono disposti a mettere in gioco le loro risorse. In fondo un 16enne, un 17enne, quello che chiede a un adulto è questo: tu ci sei o ci fai? Allora, professori definiti vampiri, però poi in fondo capaci anche di essere dei maestri in senso classico del termine, sì. Come il supplente del suo libro. Sì, cioè io credo che ciascuno di noi ricorda almeno un insegnante che è stato determinante, che sia stato determinante e che in qualche maniera ci abbia salvato la vita. Io ricordo il mio insegnante di lettere, ricordo con tantissimo affetto il professore di religione della mia scuola, che era padre Puglisi. Certo, se uno di fronte a degli insegnanti che sono i primi a stancamente ripetere cose che significano poco per loro, chiaro che i ragazzi ti mettono subito da parte. Punto. Ecco, è. La maestro Cola su questo dice che è vero che la scuola deve fare tutto questo, però la scuola deve anche insegnare nozioni, e proprio attraverso la comunicazione di questa cultura, l'insegnamento di queste nozioni, che si insegna ai ragazzi a crescere. Sì, però attenzione a non delegare troppo alla scuola, una cosa che poi la maestro Cola nel suo libro dice in maniera chiarissima. Lei dice che il problema sono le famiglie. Il punto è questo: se questi ragazzi sono stati educati a un senso della realtà che comporta anche la fatica. In questo momento, dal punto di vista educativo, l'unico aspetto che governa le vite di questi ragazzi molto spesso è il principio di piacere o di successo, per cui a volte noi professori ci ritroviamo a fare dei colloqui con i genitori in cui i colpevoli siamo noi, non i ragazzi che non studiano. E l'intervista integrale la trovate sul sito di Radio 24. Italia in controluce. E ora invece una storia. Lui è un imprenditore calabrese. Più di una volta l'andrangheta l'ha preso di mira perché si rifiuta di piegarsi e di pagare il pizzo. Parliamo di Tiberio Bentivoglio, ferito da alcuni colpi di pistola qualche giorno fa in un agguato. Bentivoglio si è salvato per caso e Roberto Galullo racconta la sua storia. Come sta? Quali sono oggi le sue condizioni? No, grazie a Dio sono molto migliorate, incomincio a deambulare con le stampelle in casa stesso, non sono ancora uscito, però psicologicamente sono ancora morto, ma molto provato. Perché colpirla dopo tanti anni passati in questi, appunto, a propagandare il verbo della legalità? Beh, non è così la storia. La mia storia è iniziata nel 92 con il primo disturbo ambientale cosiddetto. Sì. Poi nel 98 se ne sono verificate altre due, con la distruzione anche di un mezzo di lavoro, di un furgone.